ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ciao, sono Massimiliano Marzocca e sono quello che vorresti essere tu. Un imprenditore di successo, digitale e non, una laurea in economia, un master e tre Erasmus. Mi candido a partecipare a Paese Reale perché solo chi fa impresa può parlarne. Perché noi imprenditori siamo i nuovi eroi. Ciao, sono Filippo De Angelis, ma potete chiamarmi Pips. Vivo a Londra, dove sono scappato dopo che in Italia ho fatto 12 stage gratuiti per un totale di 36.000 fotocopie e 15 buoni pasto. Penso di poter parlare a nome dei giovani, in un paese dove ai giovani non viene data mai voce per poter dire che, per esempio... Ma mi avete tolto l'audio? Ma stavo a parlare? Vabbè. Mi candido a partecipare a Paese Reale perché io sono il Paese Reale. Noi giornalisti abbiamo perso il nostro punto di vista sul paese reale. La politica ha interrotto il suo contatto con il paese reale. La fede non tiene più conto del paese reale. L'imprenditoria non guarda più gli interessi del paese reale. Beh, dov'è il paese reale? Questa è una domanda che mi voglio porre questa mattina, sulla quale devo dire veramente non ho proprio nessuna risposta. Qual è il paese reale? Quello che vedete adesso, cui vedete Alessandro Chiappini dal video della trasmissione, sta andando in onda dal sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme social, con alle spalle i tetti delle case, una baraccopoli, una favela. Il paese reale sono gli abitanti della favela. E gli altri? Noi in Italia siamo 60 milioni di persone. Diamo per buono che nel paese reale ci sono quelli che sono sotto il livello di sopravvivenza, sono quelli che hanno bisogno di lavoro, sono quelli che più sono fuori dell'ottica di chi può, di chi conta, di chi osserva, di chi narra, di chi racconta, di chi ogni giorno interviene su quello che sta accadendo nel nostro paese, ma comunque ne rimangono fuori tanti. E quelli non sono il paese reale, sono il paese irreale. Questa domanda mi è venuta questa mattina guardando il sito Instagram di un comico romano, comico del genere colto, alto, è Edoardo Ferrario, che ha messo vari spunti, vari personaggi che appartengono, secondo lui, ai cosiddetti rappresentanti del paese reale. E oggi ne vediamo molti rappresentati in televisione. Io parlo a nome del paese reale e voi non tenete conto del paese reale. È il paese reale che chiede questo. Benissimo, è un concetto astratto per il quale ho massimo rispetto, però vorrei definirlo paese reale. Edoardo Ferrario ha fatto una serie di personaggi, di macchiette, i cosiddetti rappresentanti del paese reale. Avete sentito l'imprenditore che dice di appartenere al paese reale, lo studente che dice di appartenere al paese reale, tutta una serie di persone che dicono di appartenere al paese reale. E li riconosciamo tutti, anzi leggo che questi sketch saranno la parte corposa di un programma che andrà in onda su Rai Play. Mi fa molto piacere, sarebbe la prima volta che la RAI ha l'intrepidezza di mostrare quello che poi in realtà appare nei telegiornali, nei programmi, nei talk di approfondimento politico. C'è il giornalista che dice che appartiene al paese reale, molto riconoscibile, c'è il politico che dice appartenere al paese reale. Ve ne faccio sentire qualcun altro, così vi rendete un po' un conto di quello che voglio dire. Ma quello che vi domando a voi, e chiamate, vi prego, all'800240024, mi definite il modello di rappresentante del paese reale, o se voi fate parte del paese reale, visto che io assolutamente non faccio parte del paese reale, perché non riesco a decifrare il paese reale. Voglio saperlo, ma non c'è ironia in me, non c'è sberleffo, non c'è un doppio senso, non c'è un intento malevolo. Solo voglio capire esattamente, quando vi si dice un rappresentante del paese reale, a voi cosa viene in mente. 800240024. Mi chiamo Franco Taralloni. Sono solo uno dei tantissimi piccoli commercianti messi in ginocchio da sto internet, sta New Economy, sti Bezos, sti ADSL. Rappresento il paese reale, quello con le serande abbassate e il cartello cedesi attività. Sono Silvano Morgagni e non mi piacciono le etichette. Non chiamatemi chef, non chiamatemi maestro, non chiamatemi neanche cuoco. Preferisco essere definito semplicemente l'anima disobbediente di quel comparto food ormai prono alle dinamiche del turbocapitalismo. I miei riferimenti in cucina? Mia nonna, lo zozzo allo svincolo dei Frascati e Pierpaolo Pasolini. Lui, come me, voce degli ultimi. 800240024. Sentite, Edoardo Ferrario fa citazioni di tutto ciò che voi vedete rappresentato ogni giorno in televisione, soprattutto nella televisione che si fa interprete di un paese reale, che si pone come elemento alternativo, come elemento antagonista di una cecità, di un mondo che oramai ha perso i riferimenti con quella che è la realtà della vita e vive soltanto una sorta di empireo, fatto di slogan, fatto di privilegi, fatto di visioni del mondo da delle terrazze che non riescono a vedere oltre le altre terrazze che stanno allo stesso livello. Tutto vero, tutto giusto, tutto condivisibile, ma vogliamo una volta tanto concretamente dire chi faccia parte del paese reale. Mi chiami chiunque pensa che in questo momento dice io faccio parte del paese reale, sono questo. Ma vi prego però non rientrate in quegli esempi di paese reale che vengono portati tutti i giorni, perché una volta che entri nel novero, nella galleria delle macchiette di un comico, non fai più parte del paese reale. Diventi un simbolo grottesco di qualcosa che in realtà è rappresentato soltanto ai fini di simboliche e fantomatiche strumentali rappresentazioni. Tutti gli esempi che voi potete andarvi a cercare nel sito di Edoardo Ferrario, cercatelo, ha un suo sito molto ricco in cui ci sono tutte le clip di tutti i personaggi che appartengono al paese reale. Ecco, io piuttosto che pormi e accettare il ruolo di persona nella figura che rappresento in questo momento, una radio aperta al pubblico che può chiamare, di persona che però non capisce, non vede, non sente il paese reale, vorrei oggi, sinceramente, mosso da sincero intento e curiosità, capire se qualcuno riesce a definirmi chi faccia parte del paese reale. Vi elenco una serie di fraintendimenti. Il paese reale è quello che non viene compreso nella cerchia di illuminazione, il cosiddetto mainstream, cioè i media che vedono soltanto alcune realtà, alcune persone, e non si rendono conto del paese reale. Vi faccio un esempio molto terrazzero, radical chic, politicamente corretto. Fate vedere soltanto il più banale, quello che viene subito in mente, soltanto gli immigrati che arrivano poverini col barboncino magari al seguito, e non fate vedere la miseria sommessa e vergognosa che provano molti pensionati, molte persone anziane. Quello è il paese reale. Mi sta bene, però è stato già detto, stradetto, non c'è spietatezza nelle parole, non c'è disinteresse, ma può essere che il paese reale sia soltanto una fetta di persone che provano il disagio. E l'altro paese non è reale? Chi non è in situazione di disagio, di povertà, di emarginazione, non è reale? È reale. La realtà è data soltanto dalle persone che sono la punta più avanzata del disagio in questo momento. Può essere anche sia questa la risposta, io non ho risposta. Vedo un vuoto pneumatico nella pagina delle telefonate di oggi. Questo significa che c'è una grande difficoltà di classificazione del paese reale uscendo dagli stereotipi. Che oggi denuncia il fatto, sicuramente con una base ampissima di realtà e di consenso, che non ci sia una politica capace di intercettare i bisogni del paese reale, e lo do per scontato, non ci sia un'informazione capace di andare oltre i filtri ideologici e quindi raccontare il paese reale, viene raccontata una vulgata ideologicamente corroborata del paese che non è quello reale. Ecco, mi dite chi sia mai il paese reale. 800 24 0024. Leonardo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, stavo ascoltando questa trasmissione molto interessante, mi ha stimolato questo quesito del paese. Posso fare reale, un attimo, Leonardo? Sì. Una cosa che non faccio mai, perché è l'eccaculaggio che di solito fanno i conduttori del pubblico. La ringrazio perché io già mi ero preparato di parlare fino alle 13 circa, perché immaginavo nessuno mi chiamerà per dirmi dove sta il paese reale. Lei è stato il primo, ha avuto coraggio, ha rotto un muro di silenzio, quindi l'ascolto volentieri, grazie. Guardi, proprio un episodio di questa mattina, sono stato, la mia professione è quella di avvocato, vengo dalla commissione tributaria, a parte i disagi ovviamente d'ingresso, ma senza voler fare attribuire responsabilità a nessuno, un mio collega tra l'altro anche di una certa età, ultra 75enne, ha chiesto visione di un fascicolo, tra l'altro dopo aver anche preso appuntamento. Devo premettere che per norma, questo poi è importante anche ai fini della distinzione di paese reale e paese astratto, per norma il contribuente, quindi il suo difensore, ha il diritto di poter scrivere delle memorie fino a 10 giorni prima dell'udienza. È accaduto che questo collega ha udienza fissata per il 30 e quindi abbondantemente entro questi 10 giorni prima ha chiesto visione del fascicolo per poter vedere gli atti e poter esercitare un suo diritto di difesa, che è quello di fare delle memorie illustrative. Ebbene, questo fascicolo non c'era in commissione perché già ritirato, adesso non so se dal relatore, probabilmente. Vabbè, diciamo è un quotidiano di difficoltà nella macchina burocratica resa ancora più difficoltosa dal Covid, dalle attività interrotte, vista da un avvocato. Quindi secondo lei il paese reale è lo stritolamento da parte della burocrazia del cittadino, lì va cercato il paese reale? Il paese reale, diciamo, sì, è l'insieme di queste serie di difficoltà che confliggono poi con quella che è invece la previsione normativa. Noi abbiamo un'idea di Stato, di organizzazione, di amministrazione in genere, che è quella che ci dà poi la legge. Noi che siamo operatori del diritto, a quella ci atteniamo. In realtà poi ci scontriamo quotidianamente, ma noi avvocati, come mille altre professioni, fermola Leonardo, se no è diventata missione sugli avvocati. Vediamo se ho sintetizzato bene. È una dimensione intermedia che si nasconde fra il mondo rappresentato dalle norme, dalle regole, dalle leggi, dalle disposizioni, e il mondo che in realtà deve faticosamente arrancare perché quelle norme, quelle regole, quelle disposizioni siano realmente efficaci per come sono state scritte. Questo è il punto di vista di un avvocato. Oscar da Roma, buongiorno. Buongiorno carissimo, e complimenti per la trasmissione, non può mancare. Allora, ad ogni modo, cos'è il paese reale? Vorrei capire. Sì, dov'è? Un rappresentante, fammi un identikit, tu fai parte del paese reale? Credo di sì, perché per me è suddiviso in 5 categorie, così come dice istituto che fa un ranking a livello mondiale delle country, degli stati che aderiscono a 5 concetti fondamentalmente. Allora scusa Oscar, siccome tu hai studiato, ferma un attimo, hai studiato più di me, quindi tu già mi dici come premessa che il concetto della dimensione di paese reale è un concetto universale, quindi a qualunque latitudine noi rivolgiamo la nostra attenzione, lì ci sarà un paese reale che risponde ad alcune caratteristiche, quindi non c'è un paese reale specifico dell'Italia, il paese reale è un'area definibile in qualsiasi posto, così è? Uno cerca sempre di categorizzare tutto e anche questo è stato fatto, non mi invento vediamo nulla. Sintetizzami il tuo concetto. Facile. Velocemente. Sistema giudiziario, sistema economico, finanziario, istruzione, sistema sanitario e sistema ovviamente del welfare. Quindi se prendiamo tutti, come al solito non c'è una risposta a un problema complesso. Il sistema reale viene in qualche modo categorizzato in queste 5 categorie. Allora, per me non c'è un rappresentante del sistema reale. Di sicuro ci sono tanti rappresentanti del sistema astratto. Ahimè, certamente il sistema politico attuale che non ci, che ci impedisce di votare da qualche anno oramai, non è certamente quello che rappresenta il sistema reale. Quindi allora ha colto in pieno il comico Edoardo Ferrario, che fa una specie di grande campagna elettorale in cui tutte le persone si dimostrano, dicono vota per me perché io faccio parte del paese reale, ma sono tipologie talmente distanti da loro. C'è l'archistar dalla sua terrazza che si vede il Gianicolo, c'è il professore universitario di improbabili materie filosofiche turbo fantascientifiche che dice vota per me, c'è l'imprenditore del food che dice vota per me, ci sono tutti. E essendoci tutti, è un po' difficile capire chi realmente sia nel paese reale. Sentiamo solo Raffaele da Ferrara. Raffaele. Buongiorno Nicoletti. Salve. Sì. Io tutte le mattine mi chiedo dove sia il paese, ancora prima di chiedermi quale sia il paese reale. Cioè, credo che all'interno di un paese come il nostro, che ormai ha perso un po' una direzione, dove i suoi cittadini, tutte le rappresentanze, i lavoratori, lavoratori autonomi, come ad esempio sono io, le autorità, eccetera, eccetera, sì, forse hanno perso un'idea di paese. E quindi questa è stata la mia premessa. Molto bene, molto bene. Oggi è molto facile accusare qualunque categoria, hai perso il contatto col paese reale. Però bene, in questo interstizio fra realtà rappresentata e realtà concreta che tutti allucinano, ma nessuno riesce veramente a far vedere, voglio capire esattamente chi c'è dentro il paese reale. È un pertugio, è una grotta nascosta, è una immensa fenditura piena di gente, è un posto che ce l'abbiamo davanti agli occhi e non lo vediamo, è una dimensione paranormale. Dov'è il paese reale? Fermiamoci un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Sono Amedeo Laporta, professore ordinario di filosofia teoretica presso svariati atenei di questo sventurato paese. In un paese in cui il pensiero lo definiscono gli influencer, è meglio che noi filosofi si vada nella grotta di Platone, o ancor meglio, che si apra un tabaccaio. E inoltre, su Instagram ho solo 21 follower, sono tutti miei studenti e mi seguono per piaggeria. Sono Leonardo De Cristofari, qualcuno mi definirebbe un archistar, è una parola che sinceramente non amo. Alla mia età ho capito che è giusto lasciare il timone di questo bialbero che è la vita ai giovani sventurati di oggi che non hanno mai avuto le nostre possibilità. Conosco i problemi, le sofferenze e le istanze del paese reale. Li ho viste negli occhi degli operai nei miei cantieri, nel sudore dei portuali a Salina, nel cingri malai curry della mia domestica Rashida. A proposito, Rashida! Puoi preparare per cortesia quel carcadè buonissimo per questa troupe di giovani resilienti e accaldati. Mi sento come Diogene con la lampada che cerco l'uomo del paese reale. Avete sentito un'altra serie di personaggi del comico Edoardo Ferrario, che sta rappresentando in maniera ammirabile nel suo profilo Instagram alcuni farlocchi rappresentanti del paese reale. L'ultimo, l'archistar della sua terrazza, ha come metro del paese reale la sua colf che viene da un paese lontano, che gli prepara il carcadè, che è il surrogato del tè che si usava infatti durante il ventennio. Quindi è pieno di riferimenti colti, devo dire, questa galleria di personaggi, però già rappresenta quello che oggi è la grande truffa, il grande millantare, essere rappresentante del paese reale. Mi scrive qualcuno, è la bustina di tè che si butta nel mare del populismo, la citazione del paese reale. Un po' è vero, un po' fa parte della realtà, ma è un atteggiamento altrettanto sbagliato dire non esiste il paese reale, è solo una fanfaluca portata in piazza da chi vuole in qualche maniera acquistare posizioni di privilegio, farsi bello, dire sia dalla parte degli umili, degli ultimi, dei poveri, dei dimenticati, dei non illuminati dalle luci del Grande Fratello. Quindi oggi, con sincera attitudine e modesta consapevolezza di nulla sapere, voglio capire da voi se mi fate in qualche maniera avvicinare a un campione del paese reale. dando per scontato, se quello rappresenta il paese reale, tutto il resto è paese irreale, è rappresentazione fittizia, è fantasmatica proiezione di quello che non esiste. Osvaldo, da Firenze, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Ma già bisogna chiedersi perché si parla di paese reale. Fino a qualche anno fa il concetto di paese reale non esisteva, perché esisteva la realtà. Quindi se oggi noi ci ma c'erano delle citazioni, domanda, c'era borghese inginocchiati, senti passa il sudore degli operai. Il paese reale erano gli operai sudati rispetto al borghese infatti, impannucciato. Infatti, ancora infatti, prima c'era il borghese panciafichista che non capiva l'ardito spirito di chi voleva conquistare un impero. C'è sempre stato un paese reale rappresentato, che era certo, comunque rappresentato. Certo, ma noi c'è sempre stato, io tra l'altro faccio il giornalista, quindi insomma sono parte in causa, è sempre stato così, solo che da un po' di anni potremmo coincidere questo con l'avvento dei social, quindi con l'uso diciamo furbesco dei social, con le campagne elettorali taroccate fatte sui social, con il diciamo racconto. Se voglio io guarda non ho capacità di analisi politica, ma l'allucinazione del paese reale nasce con il tracollo del berlusconismo, il post berlusconismo è stata l'idolatria del paese reale, ecco, diciamo che secondo me la vedo così. Hai perfettamente ragione, stavo per arrivare proprio a questo punto, e cioè paradossalmente è l'ultimo esempio di politico che rappresentava in qualche modo, anche se parzialmente, e chi raccontava il paese reale è stato colui che è stato presentato sempre diciamo come una sorta di pifferaio magico. Poi rappresentava il cosiddetto paradiso terrestre in cui esatto, il paese reale poteva identificarsi, chiappe, esatto, felicità, acquisto, sorrisi, esatto, e quello, esatto, il paese reale a quel punto. Anche noi che facciamo, però Nicoletti, anche noi che facciamo i giornalisti dobbiamo ammettere che abbiamo una nostra responsabilità. Ma figurati, io sono qui con la cenere sul capo a dire ditemi certo, chi è il paese reale che non l'ho certo, capito. Certo, figurati. Certo, io ho lavorato per certezza. Tanti anni. Io ho lavorato per tanti anni all'Unità, prima della, diciamo, fino alla sua chiusura. Prima della fine. Potremmo dire che sono una vittima reale di un paese che in quel periodo si riteneva raccontato in maniera però, reale. Mio caro, quando tu lavoravi all'Unità le categorie erano ben precise, indubitabili e innegabili. E tu ogni sì, mattina andavi al tuo giornale e facevi la tua riunione, sapevi qual era il paese reale di cui dovevi parlare, avevi certezza, poi si è tutto sfumato, poi si è entrati nell'ambito delle interpretazioni, delle realtà parallele, e oggi vorrei capire e scegliere qual è la realtà parallela in cui esiste veramente un paese reale. Anna Maria da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono una signora anziana, 72enne, laureata in lettere, quindi ho fatto l'insegnante, e laureata in psicologia, quindi sono stata psicoterapeuta, un pochino lo conosco questo paese. La cosa che è veramente tremenda è che dal punto di vista della cultura, secondo la statistica, su 185-86 paesi, adesso non ricordo esattamente quanti sono, l'Italia sta come livello di cultura un gradino prima del Botswana, e questo è un grande problema, cioè è una delle caratteristiche del paese reale. Ci vorrebbe un nuovo maestro Manzi che insegnasse alla gente a parlare in italiano. Guarda, mi vengono i brividi ad ascoltarti. Non è il maestrinismo dalla penna rossa la risposta al paese reale. Ma il maestro Manzi oggi non sarebbe più assolutamente pensabile. Era pensabile in Italia seriamente, concretamente, classicamente analfabeta, cui andava insegnato a leggere e scrivere. Perfetto. Oggi l'analfabetismo funzionale non serve il maestro Manzi, non è qualcosa che si insegna con la lavagna e con il gesso, è purtroppo una realtà fatta di condivisione. Il maestro Manzi era comunque dietro la telecamera. Non dico che ci vorrebbe un maestro Manzi veramente, sta facendo dell'ironia, ci vorrebbe veramente qualche cosa. La televisione è un grande mezzo. Sì, però tu mi hai detto qual è la medicina per uscire dal declino. Mi sta bene tutto, va bene. A me piace cavalcare il declino e avere l'ebbrezza di sentire che scalpita sotto i tuoi piedi e osservarlo. Non sono una formula di salvezza. Però fammi capire, davanti a questo maestro Manzi, chi dovrebbe starci? Il paese reale no, o coloro no, che millantano un maestro, paese che non esiste? Sto parlando del maestro Manzi nel senso che purtroppo, secondo molte ricerche fatte sia da neurologi che da psicologi, cose serie, per esempio c'è stato un libro... Vabbè, Anna Maria, scusami, no, non possiamo andare avanti, perché non mi serve una lezioncina. Non credo che sia una formula clinica, la soluzione clinica sia quella del paese reale. Non è una patologia appartenere al paese reale. Hai detto la tua, mi fa piacere. Michele da Padova. Buongiorno, io sono anche io molto perplesso riguardo a questo dubbio, cioè praticamente secondo me il paese reale... Posso dire una cosa? L'unico ad avere certezze è Alessandro Chiappini, che mi mette in onda insieme a Pietro Lacorte e a Valentina Ternullo e assieme a Fabrizio Ponti. Perché Chiappini in questo momento, lo potete vedere nel video della trasmissione che sta andando in onda, si è messo una bancarella di scarpe, di buccia, un mercatino rionale. Il paese reale è il mercatino rionale. Questa è una risposta, ma vale altrettanto quanto vale la risposta alla professoressa che dice ci vorrebbe un grande maestro che ci rieduchi, vale l'avvocato che dice che la colpa è la burocrazia, vale il giornalista che dice la colpa è quello che è accaduto quando la politica ha perso una sua connotazione, vale tutto. Ma mi dici, senza fare anche te una lezione, chi fa parte del paese reale? Io credo nessuno più, perché cosa più di reale. Ma è esistito un paese reale? Ma è esistito un paese reale? È esistito. Adesso lo scollamento è di tutti, cioè siamo tutti un pochettino, a mio avviso ovviamente. Ma ti faccio un'altra domanda cattivella. Non è che in passato gli strumenti di elaborazione della realtà erano molto più limitati nella loro capacità penetrativa spazio-temporale, cioè ognuno vedeva soltanto i suoi vicini di casa, le persone del suo paesello, e quello era il paese reale. Oggi che il mondo si è allargato e siamo in confronto con realtà diverse, siamo alla ricerca di un paese reale. Esattamente, mi ha tolto tutto quello che volevo dire. Esattamente, adesso siamo col capo chino sul nostro cellulare, paghiamo con la mente... Ed è tutta una fantasia, fantastico su questo che è bellissimo e fantastico sull'altro che non funziona, quindi non c'è più il paese reale. Ti sento un po' male, sintetizzo con un concetto molto astratto, solo pochi capiranno. Il paese reale è il nostro San Giunipero personale. È la realtà paradisiaca che noi immaginiamo, fatta di ricordi, di nostalgie, di passato, che noi inseguiamo perché ci rifiutiamo di adattarci al fatto che esistiamo, che oggi viviamo un mondo interconnesso e allargato. Noi centonti falli parlare, ma se si capisce male dico incazzate, riesco a parlare io. Ci fermiamo un istante. Melog. Mi chiamo Umberto Sciacalli e sono il direttore de Il Reazionario, l'unico giornale maschio in bianco e nero in un mondo di quotidiani tutti belli colorati. Il nostro è un quotidiano che non ha paura di inventarsi le domande per giustificare le risposte che ci piace dare. Mi candido a partecipare a questo ennesimo talk show perché se vuoi manipolarlo, il paese reale lo devi prima conoscere. E poi perché prometto che ne sparerò 4 o 5 belle grosse a puntata. Questo è Edoardo Ferrario nella parte del giornalista cattivo, antagonista, che dice le cose come sono, molto facilmente riconoscibile in imitazione di personaggio reale, che dovrebbe andare in onda su RaiPlay, ma ho qualche dubbio sentendo la profondità e l'acutezza di questi interventi, ce la farà la Rai a mandarli in onda? Può essere, magari, sarebbe un bel passo avanti. Oggi siamo all'inseguimento del paese reale, mi sta tirando le orecchie Fabrizio Intonti, perché dicono tutti, Nicoletti fa le domande e si dà le risposte. Beh, sto riflettendo a tempo reale, non è che sto qui con uno schema davanti, una scaletta e faccio il vigile urbano che gestisce il traffico degli ascoltatori. Per me è scuola di vita questa trasmissione. Mentre voi mi date gli spunti, io a tempo reale elaboro quello che è il pensiero scaturito dai vostri spunti. Forse vi salgo sopra un po'. Vi chiedo scusa. Antonio da Vicenza. Buongiorno. L'ascolto, non la interrompo. Allora, secondo me ciascuno di noi è o pensa di essere il paese reale. E con i suoi problemi, i suoi mutui, i suoi pensieri, i suoi lutti, tutte queste cose. Vorrei esprimermi matematicamente, se posso. Ognuno di noi è un sistema e dentro questo sistema ci sono tutti questi problemi. E quindi, secondo me, il vero paese reale sarebbe un sottoinsieme, un sottoinsieme di tutti questi sistemi, di tutti questi insiemi. Però un sottoinsieme. Mannaggia, mi è sfuggita. Non volevo. Mi è sfuggita in questo momento. Proprio, sembra fatto apposta per confermare il mio dispotismo al microfono. Io non rappresento il paese reale. Contraddico l'ascoltatore. Non mi sento rappresentante del paese reale, assolutamente. Se no non farei quello che sto facendo, non mi comporterei come mi comporto. Quindi non è vero che tutti si sentono rappresentanti del paese reale. Tutti impugnano il fantasma allucinogeno di un paese reale perché gli piace dimostrarsi avanguardia di un popolo che poi in realtà è difficile rappresentare. Carmelo da Padova, vediamo se riusciamo. Buongiorno. Ascolto. Allora, io mi sento effettivamente un cittadino di un mondo reale, di una società reale, di un paese reale, perché la realtà è quello che è. Quello che può essere giudicato irreale è la rappresentazione di questa realtà. Purtroppo, per avere, come dire, una vera rappresentazione, è necessario essere consapevoli della realtà. E la consapevolezza passa attraverso tre punti principali. Uno è la percezione, come io percepisco la realtà o il mondo che mi circonda. E l'altro punto è la conoscenza, cioè sapere. Il terzo punto... Volevamo una lezione sul mondo come volontà e rappresentazione, non facciamo Rai Educational. Stefano da Mantova. Sì, buongiorno. È la prima volta L'ascolto. Che chiamo perché la domanda che lei ha posto me la sono posta alcune settimane fa e sono rimasto sorpreso che oggi si parlasse di questo tema. Io non ho una risposta specifica. Quello che mi sono detto è che oggi vedo molte persone, non tutte, identificarsi nel mondo reale in base a schieramenti. Di conseguenza si vive un po' tutto con un tifo da stadio. Io appartengo a questo gruppo o a questo tifo e rivendico l'esistenza del mondo reale, di quel sottoinsieme che spesso è nebuloso, può variare, cambia a seconda dell'esigenza, del proprio obiettivo, del proprio stato d'animo, di come ci si è svegliati, perché questo identifica un'appartenenza a un gruppo in cui mi schiero, in un mondo in cui tante certezze del passato sono cadute. Una volta quindi c'era la patria, il paese reale in questo momento, mi scusi, è una sorta di emblema che ci si costruisce, soggettivo quindi non assoluto, relativo, come l'asinello sulla bandiera della squadra di calcio. È l'emblema che noi ci poniamo, noi siamo rappresentanti di quel paese reale, perché strumentalmente in quel momento dobbiamo darci un'identità che ci sfugge, non ha radici, non ha reali strumenti di condivisione, quindi noi ci inventiamo un paese reale, diciamo noi rappresentiamo quel paese, come però far parte del mondo delle favole, del paese dei balocchi, del paese degli hobbit, della terra di mezzo, c'è tutta un'infinità di nomi anche suggestivi che si possono dare al paese reale. Perché chiamarlo reale quando è tutto meno che reale? Noi ci allucinamo mondi irreali e diciamo che il paese è reale e non diamo senso di realtà alla realtà che in realtà stiamo vivendo. Un gioco di parole assurdo. Marco da Piacenza. Sì, buongiorno. Ascolto. Sì, dal mio punto di vista il paese reale è un paese che ha non troppi problemi, un paese che non ha il problema, che so, della propria vita, non teme di perdere la propria vita, pensa che in qualche modo metterà sempre qualcosa a tavola, per esempio, e nel contempo ha comunque i suoi problemi, insomma, come tutti, non so, che si deve stare al mattino. Quindi il paese reale è fatto di persone rassegnate, che la realtà è quella, non potranno cambiarla, come prigionieri di una sorta di legge di casta, qui stiamo, cerchiamo di sfangare meglio possibile la vita nella dimensione che ci è data di vivere, è fatto di persone che si accontentano. È una soluzione, è un'idea, mi piace sentire che comunque le persone su questo stiano riflettendo, piuttosto che dire sì, bravo, tu stai col paese reale, noi siamo il paese reale. Riflettiamo sulla complessità. Quando si evoca il paese reale è un termine complesso, non è una semplificazione. Giorgio da Orvieto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, il paese reale è un paese che è diventato reale secondo me in questa fase. Il Covid è quello che ha dimostrato quello che è un paese reale, è un paese che è stato raccontato in un modo ma che poi ha tutte le emergenze legate ad uno Stato che non riesce a far fronte a delle emergenze come quella che stiamo vivendo. È un paese che ha scoperto una pandemia sociale che forse prima non veniva evidenziata perché il paese reale raccontato era diverso. È un paese reale che dimostra come i tassi Istat rispetto alla disoccupazione sono diversi da quelli reali. Questo forse è il paese reale. Quindi, vediamo se ho capito bene, il paese reale corrisponde alla nota favola del vestito nuovo dell'imperatore, avviene quando c'è qualcuno, in questo caso l'occhio innocente del fanciullo che vede che in realtà il re è nudo, è dato da un virus, che il virus in presente ci ha spogliati dei nostri orpelli e abbandonati i nostri orpelli ci rendiamo conto di vivere una landa desolata. È un po' il mito di Matrix. A un certo punto pigliamo la pillola rossa, e la pillola rossa è il Covid, e capiamo che il mondo circonda è diverso da quello che viviamo. Però non è questo esattamente il termine che viene evocato, allucinato, quando le persone dicono non vedete il mondo reale, perché in realtà il Covid lo fa vedere chiaramente a tutti il mondo reale. Tutti si rendono conto, in questi giorni chiunque deve portare i figli a scuola si rende conto esattamente com'è il mondo reale, senza attribuire responsabilità o altro. È fatto di difficoltà, di scelte, di dubbi, di non certezze. Claudio da Milano, abbiamo ancora tempo, un minuto. Claudio. Sì, buongiorno Nicoletti. Ma guarda, banalmente io voglio rispondere alla sua domanda. Secondo me il popolo reale sono io, cioè che non faccio notizia, sono una persona che lavora, onesto, incensurato e che va avanti sperando di portare avanti la baracca, lavorando onestamente. Tutto il resto è filosofia. Quello che sento dei suoi ospiti, che da fanno tanta filosofia, tante, e poi non fanno una risposta. La risposta per me, il paese reale, è fatto di gente che non fa notizia. Quindi diciamo è l'uomo qualunque, l'uomo che non disturba, che non parla, che non si fa notare, che fa il suo dovere, che è onesto, che ha una buona famiglia, che in realtà non crea problemi anche se ha problemi. Questo è il paese reale, è il paese di una maggioranza silenziosa. È un termine che è stato già usato, questo è già stato abbastanza logorato, però le do buona la sua lettura. Lei è convinto del suo rappresentante del paese reale, ne prendo atto. Davide da Rovigo. Buongiorno. Velocemente, a 10 secondi, sì. Vediamo se è okay. Illuminante. Per me il paese reale adesso è poco identificabile perché si identifica nelle paure della gente. Quando tanta gente ha paura della stessa cosa, ho paura del comunismo, ho paura di Berlusconi, identifichiamo il paese reale in quel momento. Adesso è tutto molto eterogeneo e quindi poco identificabile. Ho detto una cosa giusta, paese reale è individuare un nemico. Quando si individua un nemico, comunque ci si coalizza nella mancanza di identità verso il nemico e si diventa tutti paese reale. Ma anche questa è un'altra illusione, è un'altra irrealtà. Alla prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.